Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Ciao Enrico, sono Costantino da Matera e ho proposto di parlare di Bruce Dickinson. Bruce Dickinson. Beh, se anche qualcuno non si ricordasse questo nome, io sono sicuro che se vi dico Iron Maiden, immediatamente vi torna in mente anche il cantante storico degli Iron Maiden, quello con i due piedi entrambi, uno sulla spia di sinistra e uno sulla spia di destra, in bilico, quello che è stato il grande frontman di questa band. E è anche uno sceneggiatore, uno scrittore, un conduttore radiofonico, un businessman e soprattutto un pilota di linea. Ascoltiamo la prima canzone in studio che gli Iron Maiden hanno pubblicato con Bruce Dickinson immediatamente dopo il suo ingresso nella band, ed è uno dei brani più noti di sempre degli Iron Maiden, è Run to the Hills. To the Hills, siamo nel 1982, ma per risalire alla nascita di Paul Bruce Dickinson bisogna tornare al 7 agosto 1958. Siamo in una piccola città del Nottinghamshire. Sua madre lavora in un negozio di scarpe, suo padre è un meccanico dell'esercito, ed è stato proprio la nascita del piccolo Bruce a spingere i giovani genitori verso il matrimonio riparatore. Spesso il ragazzino viene affidato ai nonni, i suoi primi approcci alla musica avvengono proprio attraverso quella che i suoi giovani nonni ascoltavano, cioè i Beatles e il pop rock americano. Durante gli anni della scuola elementare i genitori si trasferiscono da Worksop a Sheffield e Bruce, insieme alla sorella minore, cambia due scuole in poco tempo, entra nelle classi della scuola privata Sherrowville Junior, e lui si ricorda così di questo periodo. Sono cresciuto in un ambiente in cui mi era chiaro sin da subito che il mondo non mi avrebbe fatto dei favori. Avevo pochissimi amici perché la mia famiglia si spostava continuamente. Non posso dire di aver avuto un'infanzia infelice, ma è stata quantomeno inconsueta. E il curriculum scolastico di Bruce Dickinson, come quasi tutti i curriculum di cantanti o di gente del genere, è molto negativo. Da alcune scuole viene anche espulso. Lui si rafforza in questo modo, si avvicina al teatro e va a un concerto di un gruppo che io adoro, che sono i Van der Graaf Generator, un gruppo progressive. Forse da questi poi gli Iron Maiden erediteranno il fatto di scrivere e eseguire canzoni molto lunghe e articolate. Gli Iron Maiden sono quelli un po' più progressive all'interno della scena metal anglo-americana. Poi scopre un album dei Deep Purple fondamentale per tutti, l'album Deep Purple in Rock, e con la sua prima band suona nelle stanze di un collegio. Il suo strumento iniziale sono i bonghi. Si diverte a disturbare i compagni di stanza con versioni dei classici del rock, e lui vorrebbe suonare la batteria. Inizialmente avrei voluto fare il batterista perché Ian Paice dei Purple era il mio idolo. Non potevo però permettermi la batteria, e allora mi sono avvicinato al canto. Insomma, i soldi per la batteria non ci sono, così Bruce decide di fare qualcosa che costa meno, cioè cantare. Così la storia della musica incontra colui che sarebbe diventato, a detta di molti, una delle voci più belle del panorama rock di sempre. compra un microfono, entra a far parte di svariate band durante il periodo degli studi, gli Styx, che hanno avuto anche una certa notorietà, gli Speed, gli Shots, poi approda nei Samson, pubblica due album in studio, comincia a crescere, si esibisce in un bel po' di concerti. Allora la gavetta era quella, non erano i talent. Sono gli anni in cui decide anche di iscriversi all'università, approda per la prima volta a Londra al College Queen Mary nell'East End, e però qui la passione per la musica si sfoga, prende lezioni di chitarra, canta, si laurea in storia e compare in due album dei Samson. Dunque non corre buon sangue tra i Samson e gli Iron Maiden, come spesso accade tra band che fanno generi simili, si incontrano spesso sui palchi britannici, come racconta il libro Iron Maiden dalla A alla Z, edito da Tsunami. A Bruce Dickinson i Maiden sono sempre piaciuti, ma non era un vero e proprio fan, e in quel momento il cantante degli Iron Maiden era Paul DiAnno, che era uno che dava tutto, anche se come dire, dal punto di vista fisico psicochimico era uno piuttosto devastato. Cristiano Canali, autore del libro sugli Iron Maiden, ci racconta l'entrata di Bruce nella stessa band. Come accade? Nel Reading Festival dell'81, che era un festival molto prestigioso in Inghilterra, suonavano i Samson e gli Iron Maiden si trovavano alla fine, diciamo, del tour promozionale del loro secondo album. Paul DiAnno, il singer, era piuttosto devastato, nel senso che non è mai riuscito a liberarsi da droghe, dipendenze o altro, e siccome era diventato troppo inaffidabile, una mina vagante, allora a malincuore, perché sai, cambiare il cantante è sempre un trauma, la band si è trovata costretta a pensare a un sostituto. Bruce lo conoscevano già, perché era il cantante dei Samson con cui avevano già fatto un po' di date insieme. Lui aveva appena finito di suonare, doveva essere una sorta di gaggio segreto, ma in realtà per gli addetti ai lavori sembrava praticamente una cosa certa, perché tu immagina questi due che parlottano tra di loro, il manager degli Iron Maiden e Bruce Dickinson, sotto un riflettore enorme, penso nel backstage, nel retropalco, illuminati, sembrava quasi che volessero farsi vedere. Lui sapeva il valore dei Maiden, ha subito messo in chiaro che non avrebbe per niente scimmiottato il cantante precedente, Paul DiAnno, perché lui aveva uno stile tutto diverso, anche nel vestire, nel tenere il palco, e alla fine ha fatto i provini, ha sbaragliato, ha spaccato tutto e alla fine è entrato in band. Beh, ne abbiamo sentite molte di storie del genere, una band che sta arrivando al successo e un membro della band che non tiene la pressione, si droga, si ubriaca, insomma in qualche modo diventa una palla al piede per gli altri. Però quando succede con il cantante la situazione è delicata, anche perché in qualche modo l'ingresso di Dickinson cambia completamente la storia degli Iron Maiden, perché Paul DiAnno aveva una voce più rocca, più punk direi, mentre Bruce Dickinson era tecnicamente superiore, con una estensione vocale maggiore, e quindi in qualche modo era la premessa per spostare gli Iron Maiden su un terreno anche più classicamente metal. Naturalmente all'inizio i fan mugugnano, non ci stanno, però Bruce se li sa accattivare, debutta proprio in Italia e dice frasi tipo: sono certo che questo pezzo lo conosciate meglio voi di me, e quindi in qualche modo cerca di creare empatia con i suoi nuovi fan. I Maiden escono con un bel trittico costituito da The Number of the Beast, Peace of Mind e Power Slave, tre album che li portano a un successo planetario. Su Power Slave, tra l'altro, il contributo di Bruce si fa sentire. E come? Siamo arrivati nell'84. A questo punto Bruce è ufficialmente colui che scrive le canzoni degli Iron Maiden, quindi la sua manovra di avvicinamento arriva a termine. Il tema di questo album è quello di un faraone dell'antico Egitto che si trova a fare i conti con il ruolo di divinità e con la ineluttabilità della morte. Falco e il Gabbiano. Siamo negli anni Ottanta, stiamo seguendo la carriera di un artista molto eclettico, Bruce Dickinson, cantante degli Iron Maiden, ma non solo cantante degli Iron Maiden. Proprio durante il periodo fecondo con i Maiden, Bruce, che a 30 anni, inizia a rivivere dentro di sé una passione mai sopita veramente, quella per l'aviazione. My godfather was. Il mio padrino lavorava per la RAF, per cui mi raccontava un sacco di storie sugli aeroplani. Mi portò anche all'equivalente britannico del FIDAI, la fiera sull'aviazione, quando avevo 5 anni. Ed anche mio zio era nella RAF. In qualche modo sembrava scontato che sarei entrato in aeronautica, ma non lo feci. E passò molto tempo prima che iniziassi a volare, attorno ai 30 anni. La cosa incredibile è che Bruce non solo ha preso il brevetto come pilota amatoriale durante i primi anni 90, ma ha voluto studiare come pilota di linea con la British Airways ed è stato capitano di numerosi voli civili per la compagnia britannica Astraeus Airlines, per cui ha fatto anche il direttore marketing. E non solo, ha fatto modificare un Boeing 757 per trasportare band, crew e palco durante i tour mondiali, così gli Iron Maiden si sono imbarcati sull'aereo direttamente pilotato da lui e da altri piloti, un po' come quando io vado in giro con la mia band e magari Luigi Schiavone o Fabrizio Palermo mi guidano la macchina. Qui invece era un Boeing 757. Tra i suoi voli più noti si ricordano quello con cui ha portato a casa 200 inglesi dal Libano durante i disordini del 2006, o il volo del 12 febbraio 2007 quando gli viene dato il permesso di trasportare i Rangers, la squadra di calcio, a Israele per l'incontro di Coppa UEFA contro l'Hapoel Tel Aviv. Addirittura trasporta il Liverpool a Napoli per l'incontro di calcio di Europa League. In quei giorni il Guardian titola: sembra che alla fine sull'aereo che trasporterà il Liverpool la persona più famosa a bordo sia proprio il pilota. E allora, siccome stiamo parlando di calcio, mi viene in mente che io contro gli Iron Maiden ci ho giocato a pallone e mi sono anche portato a casa la maglietta meravigliosa di Steve Harris, maglietta numero 10, anch'io ero il 10, quindi ci siamo scambiati le maglie. La sua però aveva il logo di Eddie, il mostro degli Iron Maiden, insomma veramente una chicca. E devo dire che Steve Harris gioca a pallone molto meglio di Dickinson, che infatti si è dedicato ad altri sport, poi vedremo quali. Intanto torniamo al nostro pilota d'aerei, cantante degli Iron Maiden. Sadly I can't afford my own airport and jumbo like John Travolta. Purtroppo non posso permettermi il mio aeroporto personale ed un jumbo come John Travolta. Allora ho pensato di trovarmi un lavoro. Si tratta di un grosso tubo di alluminio di un centinaio di tonnellate con due enormi motori. E qualcuno te lo affida e ti dice di portarlo giù. Tu stai volando dritto mentre il sole tramonta. E così puoi vedere che da una parte sta scendendo la notte e dall'altra invece è ancora giorno. Penso sia davvero forte. Non mi stanco mai di allacciarmi le cinture e viaggiare da qualche parte. Beh, facendo un piccolo passo indietro, possiamo dire che Dickinson non si è concesso molte pause di relax, perché negli anni 80 gli Iron Maiden hanno accumulato chilometri, fatiche, nervosismo e nella stanchezza generale sono aumentate anche le tensioni tra i membri della band. Slavery Tour dura 2 anni quasi, 84-85, e quindi poi la band si prende 6 mesi di pausa e qui Dickinson si dedica alla scherma, perché oltre all'amore per gli aerei lui ha sempre sviluppato la passione per questo sport, tanto che nella seconda metà degli anni 80, a cavallo dei lunghi tour con i Maiden, riesce a praticare scherma a livello internazionale. Insomma, Bruce canta, pilota aerei, fonda una società di manutenzione di velivoli che si chiama Cardiff Aviation Limited e una, la Duelist, che è legata alla produzione e alla commercializzazione appunto di equipaggiamenti per la scherma. Fa quasi più lavori di me. A chi oggi gli chiede come fa a mantenere vive tutte queste sue dimensioni, lui risponde così: I don't. In realtà non lo faccio. The key is to only do one thing at a time. La chiave è quella di fare una cosa alla volta. Allora ti trovi con molto tempo a disposizione. Se dici a te stesso, oddio, ho 20 cose da fare oggi, da dove comincio? Non farai mai nulla. Se invece cominci dalla prima, allora rimangono solo 19 cose da fare. È solo questione di portare a compimento ciò che ti proponi di fare. Mi piace, questa la dirò anch'io. Tra le cose da fare nel 1989 c'è stata anche una canzone per la colonna sonora del film Nightmare 5, il mito. Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. Honey, it's getting close to midnight, and all the myths are still in town. True love and lipstick on your linen. Questo brano viene cantato prima da Bruce da solo, poi la canzone piace così tanto anche agli altri, ai Maiden, che la riarrangiano e la registrano assieme e raggiungono il primo posto nella single chart inglese. Di certo c'è che a un certo punto Bruce non riesce a più a trovare lo spazio per esprimersi come voleva all'interno della band, perché non regge la frustrazione, lo stress, le incomprensioni interne. Così ci dà un taglio. Il 2 marzo del 93 la stampa dà la notizia che Bruce Dickinson abbandonerà la band. La nutrita schiera di fan della Vergine di Ferro è sotto shock. So I quit Iron Maiden, I embarked on a solo career. Chiusi con gli Iron Maiden per iniziare una carriera solista. Il successo all'inizio andava e veniva, per poi diventare molto soddisfacente. Avevo una band davvero giovane, di ventenni. Eravamo in promozione. E appena vidi le nostre foto dissi: ma chi è quel tizio lì in mezzo? Mio Dio, ero io! Ed allora pensai: c'è qualcosa che non va. Così decisi di darmi un bel taglio ai capelli. E allora notai due cose. La prima è che sembravo più giovane di 10 anni. La seconda è che la gente per strada mi trattava in modo diverso. Prima, andando al supermercato, la gente mi guardava come se fossi un ladro, mentre adesso è diverso. Fu una deludente scoperta sulla natura umana e sui pregiudizi della gente. Beh, insomma, chi vi credete che noi siamo per i capelli che portiamo, l'avevano già detto anche i Nomadi qualche anno prima. Intanto siamo nel 90, esce con un brano da solista, Born in 58, come ci racconta Cristiano Canali, autore, come abbiamo già detto, di Iron Maiden dalla A alla Z. Già dal titolo Born in 58 si deduce che parla di se stesso. Lui descrive appunto di essere nato a Worship, anche se non viene mai nominata, una città mineraria del nord dell'Inghilterra. Trova uno spunto per dire che ai suoi tempi suo nonno, insomma le persone che l'hanno cresciuto, gli avevano trasmesso valori importanti come la libertà, l'onestà, mentre nel mondo in cui viveva appunto quando ha scritto la canzone queste cose si erano un po' persi e sembrava un po' allo sbando. Questo è proprio uno dei pochi brani espliciti cui Bruce scava un po' dal suo vissuto. Stiamo raccontando la storia di una leggenda dell'heavy metal, Bruce Dickinson, il frontman degli Iron Maiden, ma non solo, un uomo dalle mille risorse e dalle mille attività, direi una doppia vita come minimo. Tutto questo ci è stato segnalato da un ascoltatore che è Costantino da Matera, che ci riassume in pochi secondi l'incredibile eclettismo di Bruce Dickinson. Vorrei tu parlassi di Bruce Dickinson perché, oltre ad essere uno dei più grandi frontman al mondo, con la sua energia e la sua presenza scenica travolgente, nella sua vita ha saputo dare molti colpi di ala. Campione di scherma e gioventù, 2 lauree, scrittore, conduttore radiofonico e pilota di aerei di linea. Beh, sembrerebbe quasi impossibile prendere un aereo e trovare in cabina di pilotaggio una delle più grandi icone dell'heavy metal mondiale. Ciao Enrico! È successi, Dickinson, oltre a essere il leader ormai assieme a Steve Harris, ma comunque il cantante, il frontman degli Iron Maiden, e si interessa anche di letteratura, di scrittura, scherma, tecnologia, fa il pilota, scrive libri. L'abbiamo lasciato durante una pausa da solista, però il 10 febbraio 1999 annuncia il rientro nel suo gruppo più celebre, cioè gli Iron Maiden. Per la seconda volta di anno deve farsi da parte, e ce lo racconta Cristiano Canali, collaboratore del fan club italiano Eddis, coautore di Iron Maiden dalla A alla Z. Le cose con Blaze, il cantante che l'aveva sostituito, non avevano funzionato perché lui era troppo diverso da Bruce, perché poi sui pezzi di Bruce faceva abbastanza schifo, e hanno beccato Bruce proprio in un periodo in cui lui si era riavvicinato al metal. Dopo baci, abbracci, riconciliazioni e quant'altro, Bruce si è fatto chiaramente promettere che non sarebbe stata una reunion nostalgica in cui facevano i vecchi classici, ma che ci sarebbero stati album nuovi, insomma, che la band sarebbe andata avanti a evolversi, ed è stato annunciato che rientrava lui, e non solo lui, doveva portarsi dietro anche Adrian Smith, che era chitarrista degli Iron Maiden, che aveva mollato il gruppo nell'89, e quindi per la prima volta i fan sono caduti dalla sedia, proprio perché non solo entra il cantante più amato, più celebre, più acclamato, ma rientra anche un grandissimo chitarrista, che non va a sostituire quello che a sua volta l'aveva sostituito, ma si aggiunge. Quindi i Maiden per la prima volta sperimentano una soluzione a tre chitarre. Festa generale, hanno fatto un tour che ha registrato praticamente sold out ovunque, poi da lì ricomincia la storia di Bruce con i Maiden. Quindi alla fine ridda di cantanti, anche Blaze Bayley si inserisce nella band, però il cantante degli Iron Maiden rimane lui, anche perché lui adora stare sul palco, ha un rapporto sano con la sua professione e ama comunque cantare più di ogni altra cosa. When you're performing on stage, you know, to all those people. Esibirsi sul palco di fronte a un grande pubblico per me è come far scoppiare un grande pallone, un'enorme bolla. Così quando inizi un concerto in un piccolo club o in un posto del genere, l'ambiente ti può sembrare ostile. Magari in un teatro non lo è, eppure forse suonare in uno stadio ti può sembrare ancor più difficile, ma poi ci si abitua. E quello che accade è che la tua consapevolezza di quanto lontano puoi arrivare con la tua capacità di comunicare le tue emozioni e toccare il pubblico è proprio come far esplodere un enorme pallone e riempire lo spazio. Bruce non si è mai fermato né sul palco né nella vita professionale, neanche in quella privata. Si sposa per la seconda volta con Patti Bowden. In tutto ha avuto tre figli. Austin, il primogenito, classe 1990, ha l'onere di seguire le orme del padre e suona già in molte band emergenti inglesi, e gli facciamo gli auguri. Di ritorno dal giro del mondo con la sua band, sempre guidando naturalmente il suo aereo, ha scritto Coming Home. Siamo nel 2010 e questo pezzo è stato scritto assieme ad Adrian Smith e naturalmente al suo partner storico Steve Harris. È contenuto nell'ultimo album a oggi dei Maiden, The Final Frontier, album del 2010. Tornato a casa, Bruce, che è anche un grande estimatore delle birre inglesi, e devo dire che io mi ricordo alla partita la panchina degli Iron Maiden con delle casse di birra a fianco, evidentemente le maltodestrine loro le assumevano così. Comunque ama anche la birra, e nel 2013 ha avviato una collaborazione con lo storico birrificio Robinson Brewery di Stockport, ideando insieme ai mastri birrai la ricetta della Trooper Beer. È una Golden Ale di 4,7 gradi che ora è esportata in 40 paesi diversi. In pratica un re Mida, perché tutto quello che tocca Bruce Dickinson diventa oro. È stato anche conduttore televisivo e anche radiofonico, ma non per Radio 24. E con il suo stile, che è una vocalità formidabile, una grande presenza sul palco, ogni volta racconta come si sente quando è dietro le quinte, e ci dice che un pochino si emoziona ancora. We had some starlight. Ricordo che con gli Iron Maiden eravamo ad un concerto organizzato per la Make-A-Wish Foundation in Sud America. Quando portai un bambino nel backstage, gli dissi: e tirò un po' la testa fuori dal sipario. E lui lo fece. E allora il pubblico lo vide e si mise ad esultare. E lui era così gasato, sopraffatto. È sempre una cosa bellissima sentire questa attesa da parte del pubblico. Ma non ho mai la possibilità di godermi questi attimi a lungo. La gente mi urlerebbe: ehi, scemo! Non abbiamo pagato un biglietto da $100 per vederti stare lì. Datti una mossa ed esci dal sipario. Stop sitting there and goofing off, you know. Get on with it, man. A febbraio 2015, mentre i fan dei Maiden stavano aspettando l'annuncio ufficiale del 16° album in studio e di un conseguente tour mondiale, Bruce si è dovuto fermare perché si è sottoposto a interventi di radioterapia e chemioterapia per curare un tumore beffardo, perché un tumore proprio sul retro della lingua. E il tumore è stato rimosso completamente e quindi devo dire che tutti sono molto ottimisti, medici, band, famiglia e soprattutto i fan che lo aspettano presto di nuovo sul palco. Ma visto che stiamo parlando di rock, anzi di metal, io non potevo non rivolgermi alla voce più autorevole per quanto riguarda l'intero metal italiano. E naturalmente quindi sto parlando di Pino Scotto. Buongiorno, maestro. Ciao Rucci, come stai? Bene, bene, tu? Sempre, ti vedo sempre in forma, dai. Dai, tengo duro. Alla grande. Dunque, noi stiamo facendo una puntata sui Maiden e su Bruce Dickinson in particolare. Quella grande chiavica. Sì. Esatto. Quindi so che tu sei una voce diversa, ma noi, sai, siamo pluralisti e poi il tuo parere per noi è molto importante. Intanto, tu non ritieni il miglior cantante che abbiano avuto i Maiden? No, quello no. Io ho sempre detto che lui. Allora, io specifichiamo questo. Io con Paul Di'Anno, il primo cantante, per amicizia da anni, addirittura sul mio, l'unico DVD che è uscito mio, Outlaw, c'è un pezzo che io ho fatto con lui, addirittura con Paul Di'Anno, sto dicendo, sì. E ho sempre detto che se non c'era questo cambio fra Paul Di'Anno e Bruce Dickinson, i Maiden non sarebbero diventati quello che sono diventati, perché ci voleva un cantante con una grande estensione come ce l'ha Dickinson, certo. Eccetera. Quello che ho sempre detto, che come uomo non l'hai mai discusso. Sì. Ho contestato l'uomo, perché la prima volta l'avevo incontrato una notte in un locale a Milano, che era in giro per promuovere un album, sì. E ci siamo trovati in un locale in centro che si è comportato proprio di merda, proprio. Tipo? Il tipo che non cagava nessuno, proprio. È andato uno a chiedergli un autografo, a un certo punto ha mandato il suo personal manager a mandarlo a fare in culo, proprio. Ah, così. Hai capito? Cioè, proprio. E in più, quando io ho suonato all'ultimo Monster of Rock a Reggio Emilia nel 92, che c'erano loro come headliner, sì. Io ero nel backstage, stavo parlando con Steve Harris, che invece è un tesoro di persona, c'era gente dietro le transenne che urlava Bruce, che uno normale avrebbe almeno fatto il gesto di girare e salutare, almeno quello, no? Certo. E lui, pensando che io non capivo, insomma, gli ha detto una frase come per dire: ma cosa vogliono sti rompicoglioni, insomma, una roba del genere, capito? E in più, cosa ancora più brutta, io non c'ero, però ho saputo dai miei amici, però siccome me l'hanno detto delle persone che io conosco, che è gente che va ai concerti metal da anni, fra cui anche un chitarrista, mi hanno detto che in un concerto in Svizzera gli avevano lanciato una bandiera italiana sul palco, lui si è pulito il culo e l'ha buttata giù la bandiera. Hai capito. Ed è per questo che mi sta sui coglioni, proprio come tutti gli uomini che si comportano di merda al di là del lavoro che fanno, insomma. Fantastico. Quindi niente, diciamo che salviamo il musicista, salviamo il vocalist sicuramente, perché l'ho detto, senza di lui i Maiden non sarebbero arrivati dove sono arrivati, sicuramente. Sì, no, siamo tutti convinti di questo. Senti, qual è il brano che ti piace di più dei Maiden con Dickinson? Io metterei un brano da dedicare a lui. Sì. Il numero della bestia, proprio. The number of the beast. Perfetto, raccogliamo in pieno la tua idea. Grazie Pino. Ciao Luigi. Un abbraccio. Ciao, ciao. Grazie a voi, ciao. E anche qui il colpo d'ala Bruce Dickinson l'ha dato più volte nella sua vita, fino a usare le ali guidando personalmente gli apparecchi con cui gli Iron Maiden vanno a fare i loro concerti. La storia di Bruce Dickinson, una persona che ha avuto anche recentemente cadute che però ci preannunciano nuove risalite, e soprattutto una vita straordinaria. Ciascuno di noi nella sua vita può anche cadere, ma può darlo quel colpo d'ala che lo porta a volare in alto. Se volete mandarci dei commenti e soprattutto segnalarci altre vite su cui puntare il microfono, fatelo, scriveteci al sito di Radio 24, al Falco il Gabbiano chiocciola radio24.it, alle nostre pagine Facebook, a me, insomma, se volete ci trovate. Ciao a tutti, a domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.